Dicevo, volevo condividere con voi un messaggio che ha per titolo Metti a morte la rabbia. Allora, dillo a chi ti sta a fianco, anche se è un chilometro distante da te, digli metti a morte la rabbia. Più forte, dillo di nuovo, metti a morte la rabbia. Perché mettere a morte la rabbia? Perché, guardate, se c'è stata una domanda che ci siamo posti, secondo me, in questa quarantena, in questo periodo storico, è che cosa sta succedendo, vero? Quando eravamo dentro, o poco prima, no? Che succederà, che cosa, non si capisce più nulla. Secondo me è andato ancora peggio dopo, no? Fase 2, non si è capita la differenza, comunque, fase 3, si chiama fase 3, quella che stiamo vivendo adesso, fase 4, non si capisce più niente, no? E ci chiediamo che cosa succederà, no? Anche guardando al futuro, che cosa succederà, che cosa ne sarà della pandemia, eh? Tornerà, non tornerà, settembre, tutti hanno paura adesso di ottobre, non si sa, tornerà, non tornerà. Le mascherine, che fine faranno queste mascherine? Ce le toglieremo, le terremo a vita? Che cosa succederà della scuola? I ragazzi stanno tutti pregando che non si tornerà mai più. Non è così, si tornerà ragazzi, prima o poi si tornerà, ve lo garantisco. Che cosa succederà? E questo periodo per noi, soprattutto quello in cui siamo entrati, adesso abbiamo di fronte, può essere un pochino, sai, questo emergere dalla quarantena, questo affrontare il futuro che ci sta davanti, può essere proprio come un stare a un davanzale dopo aver aperto la finestra. Per questo tavolo lungo non è che sono megalomane, è solo per dare l'idea, un po' di sforzo immaginativo dobbiamo fare, però immaginiamo un po' che questo è il davanzale, stiamo alla finestra e apriamo questa finestra e iniziamo ad osservare, no? E ci chiediamo che cosa succederà al nostro futuro. E se prima iniziamo a pensare, no, a pandemie, mascherine, scuola, politica, economia mondiale, economia parte sempre, no, dai cataclismi mondiali, però prima o poi iniziamo a chiederci domande su di noi, non è vero? Che cosa succederà a me? Che cosa succederà alla mia famiglia? Che cosa succederà alla mia, al mio mutuo? Che cosa succederà? E così ci guardiamo avanti da questa bellissima finestra, porta, portone. Dice, io ho fatto la finestra. E sapete, senza neanche accorgercene che cosa succede? Senza invito, indesiderato, moggio moggio, tranquillo tranquillo, molto casual, essendo tutto quello che noi vorremmo essere, no? Noi vogliamo essere tranquilli, senza problemi, senza pensieri per la testa. Sapete che si presenta così, mogio mogio, tranquillo. Secondo me, io me lo immagino, il cappellino, lecca lecca in bocca, occhiali da soli, sole. Il nemico. Il nemico viene e si presenta al nostro davanzale. E si presenta al nostro davanzale e ci guarda, dice, beh, che aria tira? E noi, sorpresi, dice, questo, che vuole? chi è? O forse non ce ne accorgiamo neanche. Che aria tira? Guarda un po' che aria tira. C'è i cataclismi mondiali, poi non ti parlo della mia famiglia, mia moglie, mio figlio. E lui dice, è vero, eh. Continua, no? Dice, ma hai guardato a quello? Senza neanche accorgersi, questo è sottilissimo quello che fa. Dice, hai guardato a quello? Noi non ci siamo neanche accorti, però lui sta puntando il dito per farci guardare nella direzione che vuole lui, a quello che vuole lui. E dice, ma guarda quel macchinone, per i maschietti per esempio, o per le femminucce fra di noi, o guarda quel vestito, guarda quel... lui sì che c'ha una carriera. Lui sì che non ha preoccupazioni dell'economia, quello c'è, cioè, la banca che gli esplode. E noi iniziamo a pensare, no? Torniamo qui e iniziamo a pensare. Diciamo, è vero però, loro sì che... E poi il nemico continua e dice, ma che ne sai di quelli? Che ne sai di quelli come si sono comprati quel macchinone, quel vestito, la carriera? È che quelli sono un po', secondo te, così sono arrivati a quello. Ha finito. Se ne può anche andare. ha seminato il seme che voleva e doveva seminare e va via. E noi rimaniamo qui. E diciamo, sì, è vero. Quello è un po' come, sono tutti mafiosi. Iniziamo a pensare alla politica. Che ha fatto il nemico? Ha messo la teiera, il bollitore sul fuoco e se n'è andato. E noi adesso siamo quel bollitore sulla fiamma. Iniziamo a pensare, alimentiamo i nostri pensieri. La politica corrotta, dittatori, mafiosi. Sono tutti quelli che rubano, quelli che vanno avanti, sono quelli che spingono, sono quelli che vedi e vanno di meglio in meglio. Io che cerco di essere buono, invece va di peggio, di male in peggio, di peggio in peggio, come la volete dire. E guardiamo e ci accendiamo sempre di più, no? E il nostro fischietto inizia a fischiare, vediamo se tanto non ci berrà niente più nessuno da questa terra. Il nostro cuore inizia a fischiare, non è vero? E poi ad un tratto magari iniziamo a pensare dai nemici, no, mondiali, nazionali, quantomeno ce l'aspettiamo, iniziamo a pensare poi dei nostri nemici, no? Magari il fratello, la persona più vicina, l'amico che ci ha pugnalato alle spalle, non è vero? Sono loro i veri malgiati, quelli che, dal quale ti aspettavi invece proprio ti hanno pugnalato. Non succede a nessuno, vero? Solo a me. E lì la rabbia si infuoca, ormai la teiera o comunque lo scaldacqua è diventato una locomotiva con il fischietto che va a mille ed è acceso, la nostra faccia è rossa, i nostri occhi ancora di più, perché sono proprio quelli più vicino, magari la moglie, il marito non doveva fare così, lei si fa strada essendo quello che è, o lui, metteteci chi volete. E iniziamo a invidiarli, iniziamo a dire, ecco io dovrei fare così, se io faccio così, se io mi faccio rispettare, allora non mi tratterebbero così, no? Chi picchia per primo picchia due volte, si dice qui a Bari, no? E lo devo fare anch'io, iniziamo a invidiare i loro modi di fare, quello che loro hanno fatto. Prima o poi tutti sono malvagi, anche io, perché tutti sbagliamo prima o poi, no? E non ci rendiamo conto. Vedete lo sporco gioco che il nemico ha fatto con un suggerimento, con un là, ci ha fatto vedere a qualcosa, ci ha dato un piccolo suggerimento e siamo entrati in quella spirale. Siamo entrati in quella spirale che a vortice che non finisce più e ci fa girare la testa. La parola di Dio, il Salmo 37, ci dà una perla di saggezza, ci dà una cosa meravigliosa per combattere e non cadere nella trappola del nemico, per combattere e non entrare in quella spirale che ci ammazza. Fratelli e sorelle, ci ammazza la rabbia, il rancore, l'amarezza, l'afflizione. Possiamo anche aggiungerci, se volete, ansia, paura, indecisione del futuro. Queste ci ammazzano e il nemico ci suggerisce queste cose per portare morte nella nostra vita. E il Salmo 37 ci dà una perla di saggezza, perché è un salmo sapienziale che dà saggezza per combattere questo schema del nemico. Lo leggiamo insieme, vi va? No, non vi va? Ah, ok, benissimo, scherzo. Salmo 37 di Davide, il salmista per eccellenza, dal verso 1 al verso 5 dice questo: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Verso 3, confida nel Signore. Confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore. Confida in Lui ed Egli agirà. Vedete che benedizione. La prima cosa che il Salmo 37 ci dice è di no alla rabbia. Girati a chi sta a fianco e di no alla rabbia. Oh, bravissimi, belle. Dillo di nuovo, di no alla rabbia. Noi in Cristo Gesù possiamo dire di no, fratelli e sorelle. Quando il nemico si presenta, noi possiamo rivolgergli la parola per autorità di Cristo Gesù che ha vinto su quella croce per noi e possiamo dirgli no grazie. Tu vuoi che io veda le cose in una determinata maniera, tu indichi il dito in un determinato posto, luogo, situazione, io ti dico no grazie, non sei benvenuto, sei indesiderato a questo davanzale, è la mia finestra, è quello che io voglio vedere, ci vedo, tu non sei il benvenuto. Possiamo dire di no al nemico e il nemico viene in una maniera così sottile. Non ce lo dobbiamo immaginare col forcone, le corna, è molto più scaltro di questo. A volte è solo un'idea, non vi è mai capitato, capita solo a me, che stavo tranquillo, sereno, magari una giornata e viene quell'idea, viene quel pensiero, viene quel, e subito in noi si crea agitazione, ansia, paura e poi tramuta in rabbia, irritazione, afflizione, perché quello che è più grande di noi, quello che non si può controllare, ci rende impotenti. E quindi scatta in noi la rabbia perché vogliamo fare qualcosa a riguardo. Oppure ci affliggiamo, no? Cioè, tutti a me, Signore, tutti a me. Possiamo dire di no a tutto questo. Scrivilo se stai prendendo appunti. Di no alla rabbia, di no al nemico. Sapete, la Bibbia descrive il nemico al davanzale della nostra finestra, della nostra vita, come il leone ruggente che gira intorno per cercare una preda da atterrare. Questo è il nostro nemico. Satana viene descritto come quel leone che gira attorno. E noi, nel nome di Cristo Gesù, gli possiamo dire, attorno puoi andare, ma qui non ci puoi stare. Al davanzale della mia vita non sei benvenuto. E quindi ti rifiuto. Rifiuto le tue idee di rabbia e di rancore verso gli altri. Rifiuto la gelosia. Rifiuto le invidie. Rifiuto l'ansia. Rifiuto la paura e l'incertezza del futuro. Non sei benvenuto qui. Un'altra cosa dobbiamo sapere del nemico. La parola di Dio, la Bibbia lo dice. Satana non è onnipresente come Dio. Dio è onnipresente, Dio può essere con chiunque, ovunque, contemporaneamente. È il nostro glorioso Dio, non è meraviglioso? Lui può essere ovunque, dovunque e comunque. Satana no. Satana può visitare uno alla volta, ha questa limitazione, avrà altri poteri, però può essere in un luogo una persona alla volta. Quindi la probabilità che lui si presenti al davanzale della nostra vita, diciamo, sono scarse, no? È vero, ha demoni, suoi servi, e quindi magari sono quattro gatti in più. Però diciamo che è scarso. Sapete chi è il peggiore nemico di me stesso? Me stesso. I miei pensieri, i nostri pensieri possono essere i nostri peggiori nemici. E noi a quei pensieri possiamo dire di no. Il Salmo 37 al versetto 1 dice proprio questo, suggerisce da questa saggezza non adirarti, di no alla rabbia, di no all'invidia, non cadere in quella trappola. Allora noi ai nostri pensieri, nel nome, nel potere di Cristo Gesù possiamo dire di no. La prima perla di saggezza che il Salmo 37 ci dà è proprio questo. Di no alla rabbia. Hai già scritto? Di no alla rabbia. Però non basta. Non basta questo. E il Salmo ce lo fa vedere. Non basta dire di no alla rabbia. Ci sono altre cose che possiamo fare. La prima cosa è guardare avanti. Il saggio. Chi ha fede in Dio è il vero saggio, quella è la vera saggezza e la saggezza vera proviene da Dio, lo dice la parola di Dio. E il Salmo 37 ci dà questa saggezza, il saggio guarda avanti, ma molto avanti, non un anno, non 10 anni, ma magari 1000 anni. Il saggio, colui che ha fede in Dio e Cristo Gesù, ha una prospettiva, ha una visuale, ha una vista eterna. E questa vista eterna ci fa vedere che fra mille anni noi saremo davanti al nostro amato Dio se abbiamo confidato in Lui. E non c'è gioia più grande, non c'è pace più grande, non c'è serenità più grande che in quel luogo. Quello che succede qui, questa prospettiva che il saggio ha, è una prospettiva eterna, perché sa che la vita su questa terra, insieme ai malvagi, alla finestra con la pandemia di fronte, è solo un batter di ciglio, dice la Bibbia. La vita è un batter, è come l'erba, nasce e secca, e l'erba secca molto velocemente, soprattutto quando fa caldo così. Questa è la prospettiva del saggio. Il saggio sa guardare avanti. Questo dice il verso 2. Guarda avanti, vedi, e si rende conto, guardate, verso 2, presto i nemici, i malvagi, saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Oggi ci sono, domani non ci saranno più. Il suo macchinone, il bel vestito, la carriera, il potere, le sue malvagità, le sue cose che ha fatto di sbagliato nei nostri confronti, oggi ci sono, domani non ci saranno più, saranno erba. Loro stessi, se non chiedono misericordia a Dio in questa vita e non si pentono, soffriranno le pene eterne dell'inferno. Questo il saggio sa guardare. E vedete cosa succede? Vedete cosa succede? Il malvagio non ci fa più rabbia se lo guardiamo in questa prospettiva. Non ci fa neanche più invidia. La rabbia è rimpiazzata dalla pietà. Ci fa pietà il malvagio, perché sappiamo la fine che farà. Non solo, non lo invidiamo più, anzi, magari, vogliamo aiutarlo. Verso 3, fa il bene. Il saggio vuole fare il bene, lo vuole aiutare a questo saggio, lo vuole avvisare. Guarda che quello che fai a me, mi fa caldo, mi fa freddo, ma sai che pericolo stai correndo tu? Sai che cosa ti può accadere? E con questi occhi il saggio guarda i politici corrotti, i mafiosi, ma anche il figlio che ti ha ferito, la moglie, il marito che ti ha ferito, i vicini, l'amico, il fratello, la sorella in chiesa. Lo guardiamo con questi occhi, perché sappiamo anche che abbiamo bisogno di essere guardati con questi occhi. Chiusa parentesi. Il saggio guarda avanti a questa prospettiva eterna, alla finestra della sua vita. Quindi il saggio dice di no alla rabbia, guarda avanti, e poi la terza cosa che questi pochi versi ci dicono è che il saggio guarda in alto. Il saggio sa guardare in alto. E certo, lui guarda avanti, sa quello che gli aspetta, cioè Cristo Gesù in tutta la sua gloria, la sua presenza, un'eternità di pace e di riposo, e per questo inizia a guardare a quello e guarda sempre più a chi lo aspetta, Cristo Gesù, a Dio glorioso. Per questo noi cantiamo ogni domenica, per questo ce lo ricordiamo. Quello è il nostro destino eterno, non il batter di ciglio che stiamo vivendo oggi. Quello è il nostro destino, per questo ce lo cantiamo e ce lo ricordiamo, fratelli e sorelle e amici. E guardiamo a Lui. E guardiamo a Lui in modi molto specifici. Siamo chiamati a guardare a Dio in maniera molto specifica. La prima è confidando in Lui. Il verso 3 dice che il saggio confida nel Signore. Che cosa significa? Ha fiducia di Dio. Ha fiducia di Dio nel bel mezzo della sua vita, anche se le cose che vede fuori dalla finestra sono spaventose più che mai. Il saggio dice, sì Signore, ma io mi fido di te. Io dico di no a tutto questo, io mi fido di te, perché io so chi tu sei. Crede, per questo ha fiducia. E sapete quando ha più fiducia? Quando serve più di tutto questa fede? Quando le cose vanno di male in peggio. Quando sembra che il malvagio sta sempre meglio e gli va sempre meglio. Non lo beccano mai, non gli va mai male una cosa. Com'è possibile questa cosa? In quel momento, chi ha fede, chi sa che Dio è più grande, avrà l'ultima parola perché crede in Lui, dice, no, io so che fine fa. Io ho fiducia nel mio Dio, guarda in alto, guarda a Dio con fiducia. Non si fa trascinare dalle emozioni negative, non si lascia andare a rabbia, a rancore, a amarezze. Non lo fa perché sa che Dio avrà l'ultima parola. Sapete, non si lascia andare neanche a autocommiserazione, perché è questo quello che succede, no? Prima ti arrabbi e poi ti butti giù e dici, tutto a me succede, no? Non me ne va una buona, tutti a me mi vogliono male, tutti con me ce l'hanno. Guardate, solo dire tutti con me ce l'hanno, tutti a me vogliono male, di per sé è una menzogna. Possiamo smascherarla come una menzogna, perché almeno uno o ti sta ignorando e quindi non ti calcola proprio, quindi non ce la può avere con te. Vedi quanto è sottile il nemico. Se abbiamo l'idea, non ce la possiamo mai fare, tutti ce l'hanno con me, sappiamo che è una menzogna del nemico. Sappiamo che è quell'idea. Non ce la farò mai. Solo io me la so detta questa. Non ce la faremo mai, non usciremo mai, non ne usciremo vivi. Menzogne che il nemico ci suggerisce per mantenerci in quella spirale. Noi gli diciamo di no, noi guardiamo avanti e noi guardiamo in alto, con fiducia al Signore, dicendogli: Signore, io confido in te. E guardate, dal Salmo, la differenza fra il malvagio che appassisce come l'erba, marcisce in un niente, e il giusto. Invece il giusto, il saggio, abita il paese. Sapete, era la promessa al popolo di Israele: se voi mi ubbidite, se voi seguite i miei comandamenti, se voi vi fidate di me, se voi riponete la vostra fiducia non in altri dei, non in altre nazioni, ma in me, io vi farò entrare nel paese dove scorre il latte e il miele, avrete il vero riposo. Questa fiducia vale ancora per noi oggi, questa promessa piuttosto vale ancora per noi oggi. Se noi ci fidiamo di Dio, lui ci farà entrare nel paese dove scorre il latte e il miele. E il latte e miele può essere quello che vuoi, di bello, metticelo tu. Lui ci fa entrare in quel riposo. Guardiamo in alto con fiducia. La seconda cosa è: guardiamo in alto facendo di lui la nostra gioia. E per forza, lo guardiamo con fiducia, e più lo guardiamo, più ci rendiamo conto, e questo deve essere il nostro esercizio, più lo guardiamo, più ci rendiamo conto che non c'è gioia più alta di lui. Lui è l'unico vero che può appagare, lui è l'unico che veramente può soddisfare, lui è l'unico veramente che può colmare. Fratelli e sorelle, se noi mettiamo qualsiasi altra gioia al di sopra di Dio, che può essere pure una cosa bella e positiva, può essere la moglie, il marito, può essere un figlio, una figlia, può essere la carriera, può essere la casa, quello che volete. Se queste cose ci danno più gioia che Dio, le abbiamo rese un idolo, e un idolo lascia sempre a terra. Prima o poi un idolo ci lascia sempre a piedi, insoddisfatti, amareggiati e delusi. Un idolo ci lascia sempre a terra. Dio, e solo Dio, merita che noi lo rendiamo la nostra gioia più grande. Quello ci soddisferà veramente, quello ci riempirà veramente. Quello è quello che fa la differenza nella nostra vita. Questo è il punto cruciale e ultimo della fede, del credere, dell'essere credente. Rendere Dio la gioia suprema, renderlo supremo su ogni altra cosa. Lì tutto cambia, lì tutto si trasforma, lì la nostra vita diventa vita nuova. Sapete cosa succede quando noi rendiamo Gesù la nostra gioia al di sopra di ogni altra? E quando stiamo alla nostra finestra, la apriamo e guardiamo, sapete cosa succede? Diciamo di no al nemico, se ne va il nemico, e lui viene a quel davanzale, lui viene a quella finestra. Fratelli e sorelle, amici, lui ha dato tutto se stesso, ha dato la vita per stare al davanzale della nostra vita. Lui ha dato la vita per stare nella tua vita e per farti guardare in maniera diversa, per farti guardare con speranza, fiducia e forza al futuro, a quello che accadrà a ottobre, novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha dato il suo tutto per stare lì con te a quel davanzale. Per questo non possiamo lasciare spazio al nemico, ma rendere lui la nostra gioia. E lui viene, e lui viene, e ci farà guardare le cose in maniera diversa e ci darà una forza diversa e la finestra diventerà una porta, un portone. Non vorremmo più richiuderci in quarantena, perché questo è quello che il nemico fa quando ci fa vedere le cose in una certa maniera. Vuole farci tornare in quarantena, ma noi non siamo chiamati a una vita in quarantena. Il Signore Gesù ci fa spalancare quella porta e uscire con fiducia e forza, perché noi siamo forti, perché quegli orizzonti non fanno paura, no, ma perché noi sappiamo chi è al nostro fianco, la nostra gioia al nostro fianco, la nostra forza al nostro fianco. Lui è con noi, Lui è la nostra gioia suprema. Guardiamo in alto con fiducia, rendendolo Lui la nostra gioia. E l'ultima cosa, se state prendendo appunti, l'ultima cosa è: noi guardiamo in alto riponendo la nostra sorte nel Signore, c'è scritto nel verso 5. Letteralmente, una traduzione letterale sarebbe rotolando la nostra strada su Dio. Ed è proprio questa l'immagine, la nostra strada, la nostra vita, tutto quello che ci affligge, tutto quello che ci amareggia, tutte le nostre rabbie, paure, invidie, incertezze, le prendiamo e le arrotoliamo su di Lui. Non è meraviglioso? È come se portiamo un carico, no? Che ci sta schiacciando e che ci vuole schiacciare sempre di più. Il nemico si appende pure sopra questo carico. Noi lo prendiamo e lo rotoliamo su di Lui. Questo succede quando il saggio guarda in alto, guarda a Lui e dice: Signore, io li abbandono a Te. Dico di no a queste menzogne. E poi se rimangono, se c'è uno strascico, le rimetto a Te. E io le lascio su di Te. Sapete, la Bibbia in... vediamo se lo trovo sicuramente, 1 Pietro, al capitolo 5, nel Nuovo Testamento, è come se ripetesse solo in parole diverse il verso 5 del Salmo 37. Sentite che cosa c'è scritto. C'è scritto: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Come ci umiliamo? Come possiamo essere innalzati? Gettando, rotolando, rimettendo su di Lui ogni nostra preoccupazione. Perché? Perché Egli ha cura di noi. Finisce così il verso: perché Egli ha cura di noi. Come ci umiliamo? Come facciamo praticamente? Uno potrebbe chiedere: Gianlu, ma sì, però praticamente io come faccio a rotolare i miei piedi su di Lui? Prendi queste promesse, umiliati, digli: Signore, io non ce la posso fare. Questa amarezza, questo rancore, questa rabbia, a quello che mi è stato fatto, ai torti che io ho subito, non li riesco a rilasciare. Io ho bisogno di Te, io mi umilio. E come ci si fa a umiliare? Con la fede. Si inizia a credere che Lui ha cura di noi, che Lui si prenderà cura dei torti da noi subiti, che Lui si prenderà cura dei nostri problemi irrisolti, che Lui si prenderà cura di ottobre, novembre, dicembre e fra 1000 anni. Lui ha cura di te. Questa è una meravigliosa promessa. E praticamente noi ogni mattina, posso darti questo suggerimento, ogni mattina prendi questo libro, è la sua parola, è la Bibbia. Questo è piccolino, ce ne sono in formati più grandi, ce ne sono in elettronici. Prendila ogni mattina e trova una promessa, trova una parola, perché ce ne sono a infinità. Prendila quella di stamattina, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. E inizia a predicartelo a te stesso appena ti svegli. Egli agirà, Egli si prenderà cura di me. Egli agirà, Egli si prenderà cura di me. E vai in tutto il tuo giorno, in ogni cosa che fai, in ogni situazione che affronti, proclamando questa verità, questa promessa: Egli ha cura di me. Così il saggio dice no alla rabbia, dice no al nemico: non ci puoi stare qui. E lo cacciamo nel nome di Cristo Gesù. E guardiamo avanti a una prospettiva eterna. Che cosa sarà fra 1000 anni? Riposo, la sua presenza. Che fine fanno i malvagi? Brutta, brutta. E non ci scalfisce più. E guardiamo a Lui. Guardiamo a Lui in fiducia. Guardiamo a Lui, rendendo Lui la nostra gioia suprema. Perché sappiamo che tutto il resto ci lascerà delusi. e guardiamo in alto a Lui, arrotolando su di Lui ogni nostro peso, ogni nostra rabbia, ogni nostra invidia, ogni nostra gelosia, perché Lui ha cura di te. Amen. Lui ha cura di te. Da domani mattina alziamoci e proclamiamo queste promesse. Ci alziamo in piedi. Non c'è giorno migliore che arrotolare, arrendere la propria vita a Gesù. E se l'hai già fatto tante volte, o è per la prima volta che senti parlare di Gesù in questi termini, Lui è qui per prendere i tuoi pesi. Dio è più vero che mai. E i malvagi, come dicevo prima, coloro che non riconoscono che hanno bisogno di Dio, che hanno bisogno dell'aiuto suo, la parola di Dio dice: tutti noi siamo malvagi perché non riusciamo a mantenere lo standard di Dio e abbiamo bisogno di Lui. Se lo riconosciamo, Lui trasforma la nostra vita da malvagi a santi. Se non lo facciamo, spenderemo un'eternità di punizione. E questo io non lo auguro a nessuno. Per questo non c'è momento migliore, non c'è giorno migliore, se non offrire, rotolare la nostra vita, la nostra sorte su Dio, su Gesù. E se senti qualcosa in te che dice: io veramente non ce la faccio più, basta con queste amarezze, basta con questa paura, con questa ansia, con questa rabbia, con questa gelosia delle cose sbagliate, non le voglio più, non ce la faccio più, Gesù questa mattina ti dice: io sono morto proprio per quelle, io sono morto per toglierle dalla tua schiena, dalle tue spalle e rimettermele sulle mie. Vieni a me, tu che sei stanco ed aggravato, e io ti darò riposo, io ti darò riposo. Per questo vieni a Lui. Possiamo chiudere i nostri occhi solo per concentrarci su queste verità. E se questa mattina dici: sì, io voglio arrendere la mia vita a Gesù, puoi farlo in maniera molto semplice. Grida a Lui, rivolgi a Lui una preghiera, e puoi rivolgere una preghiera come questa: Signore Gesù, io ho bisogno di te, sono stanco della malvagità intorno a me e della malvagità dentro me. La rimetto a te, salvami tu. Amen. Puoi avere la fiducia che il tuo peccato è cancellato e che hai una nuova vita in Cristo Gesù. E se tu l'hai fatto un milione di volte, lo puoi fare ancora una volta questa mattina, lo sai? Meraviglioso, questa è la meravigliosa notizia in Cristo Gesù. Le sue misericordie sono nuove ogni mattina. E sono nuove per noi questa mattina. Se hai un peso, se hai una rabbia, se hai un'invidia, anche magari con uno in famiglia, uno nella chiesa qui o là fuori con un amico, rilasciala a Lui questa mattina, perché ti stanno ammazzando, quella rabbia, quell'invidia ti sta ammazzando. Rimettila a Lui. Cantiamo questo coro e usiamo questo coro per rimettere queste cose nelle mani del Signore.